L'altro pianeta di Laura Bettini. Ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta in cui parleremo di RAE. Ancora una volta lo ripetiamo perché il significato degli acronimi non è sempre noto. RAE significa rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quindi una categoria molto vasta e molto delicata di rifiuti, perché può costituire un danno e un pericolo se abbandonata nell'ambiente, mentre al contrario, se consegnata alle isole ecologiche e opportunamente trattata, può essere una vera miniera di preziose risorse. Perché ne parliamo? Perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore da un paio di settimane il decreto che recepisce la direttiva europea sui RAE e ci sono novità importanti per i consumatori. Allora ne parliamo con Danilo Bonato, direttore generale di Remedia, consorzio nazionale per la gestione di tutte le categorie di rifiuti tecnologici, quindi IRAE, ma anche pile e accumulatori e impianti fotovoltaici a fine vita. Quali sono le novità più importanti? Ma innanzitutto qualche aiuto in più ai consumatori che hanno capito l'importanza di smaltire correttamente questi rifiuti, in quanto sono prodotti che in genere contengono anche delle componenti pericolose. Pericolose per cosa? Per la salute e anche per l'ambiente. Quindi noi cittadini abbiamo l'interesse ad essere certi che questi rifiuti, prodotti che quindi non usiamo più, buttiamo via, una volta che vengono smaltiti, sia questo smaltimento avvenga con la massima sicurezza. E come facciamo ad avere questa garanzia? Ma intanto abbiamo le isole ecologiche. Sappiamo che in Italia alcune zone sono molto bene attrezzate e quindi possiamo portare i nostri rifiuti, consegnarli agli enti locali, ai gestori, al nostro comune, che li raggrupperà e poi li farà arrivare attraverso i consorzi a impianti di trattamento che assicurano che tutto venga fatto in modo corretto. Però poi c'è un'altra possibilità, che è quella di rivolgersi al nostro negoziante, e questa c'è già, diciamo, per quello che riguarda l'acquisto di un nuovo prodotto. Quando io acquisto un prodotto elettronico posso consegnare gratuitamente quello vecchio, ma si aggiunge con questo nuovo decreto in vigore da pochi giorni una seconda possibilità che riguarda però solo i piccoli apparecchi elettronici. Sono quelli che hanno il lato più grande non superiore a 25 centimetri. Questo dice la legge, quindi facciamo mente locale su quello che può essere in casa, uno smartphone, un frullatore, un piccolo elettrodomestico, un rasoio elettrico. E in questo caso noi possiamo consegnare gratuitamente al negozio specifico. La legge anche qui pone un limite di obbligo per il negozio che ha almeno 400 metri quadri di superficie, quindi parliamo soprattutto dei grandi negozi, ma anche i piccoli volontariamente possono offrire questo servizio, che consiste nella possibilità di consegnare il piccolo apparecchio elettronico gratuitamente e senza obbligo di acquisto. Questa è la grande novità che possiamo presentare, diciamo, con questo decreto. Quindi questo è per quello che riguarda il consumatore, però arrivano anche dei nuovi obiettivi per noi, che arrivano appunto per una scelta europea di andare verso una direzione precisa, quindi di aumentare la raccolta dei RAE. Quali sono questi obiettivi e a che punto siamo? Perché non andiamo benissimo da questo punto di vista. No, abbiamo tanta strada da fare e, quanto dicevo prima, su questo 1-0 va proprio nella direzione di rendere più facile, più semplice per il cittadino contribuire a raggiungere i nuovi obiettivi, che sono impegnativi. Basti dire che fino ad oggi l'obiettivo che l'Europa assegnava ai Paesi membri era di 4 kg di rifiuti elettronici, di questi RAE, raccolti per ciascun abitante ogni anno. Come siamo messi noi oggi? Siamo a 4 kg, quindi siamo arrivati a raggiungere questo obiettivo, ma in realtà la media europea è più alta. In Europa la media è intorno ai 7 kg, quindi noi siamo un po' dietro rispetto alla media. Però l'obiettivo che questa direttiva introduce porta a obbligare i Paesi membri dell'Unione Europea a raggiungere entro il 2019, che sembra molto distante, ma in realtà sono 5 anni, alla raccolta dell'85% di tutti i rifiuti elettronici generati dalle famiglie. Se la posso tradurre in un dato di chili per abitante all'anno, parliamo di 13-14 chili. Pensiamo quindi che dai 4 attuali ai 14 che dovremmo raggiungere in 5 anni c'è veramente tanta strada da fare e bisogna cambiare passo. E per fare questo occorre che tutti i soggetti che sono coinvolti nel sistema, i produttori, i distributori, i comuni, i riciclatori, ma anche i consumatori, che loro per primi devono capire quanto sia importante riconoscere questi apparecchi elettronici che diventano rifiuti, non buttarli nella raccolta, diciamo, generica, e andare o al negozio o all'isola ecologica per far sì che questi flussi effettivamente crescano anche rapidamente. Nella sua esperienza questo è possibile, diciamo, in così poco tempo in Italia? Noi abbiamo delle esperienze di successo in altri paesi, peraltro teniamo conto che quando siamo partiti noi eravamo a 2 kg e in pochi anni abbiamo raddoppiato, siamo arrivati a 4. Ora ci siamo un po' fermati, abbiamo rallentato, ma guardando le esperienze fatte all'estero e avendo visto quanto l'importanza della distribuzione come luogo facile, comodo, perché un negozio vicino a casa lo trovo sempre, perché questo 1:0 mi consente di portare indietro il vecchio apparecchio elettronico di piccole dimensioni senza dover acquistare necessariamente uno nuovo. Quindi io credo che non sarà semplice, ma avendo questo aiuto in più, proprio la possibilità di riportare i piccoli apparecchi elettronici, il fatto anche che questi prodotti iniziano ad avere un valore economico importante, perché c'è un aspetto ambientale che per me è fondamentale, ma devo dire che molti prodotti, pensiamo agli smartphone, ai tablet, ai prodotti elettronici, dell'informatica, sono fatti di materiali pregiati che hanno un valore economico, e questo potrebbe far sì che il cittadino si veda circondare, diciamo, da possibilità più comode, più facili e a volte anche remunerative, perché sappiamo che certi prodotti possono essere anche acquistati come prodotti usati da reimmettere sul mercato dell'usato. Quindi credo che ci siano i presupposti per fare un buon lavoro e sarà fondamentale la comunicazione e l'informazione, che devo dire fino ad oggi è stata abbastanza carente. Basti dire che alcune ricerche recenti hanno dimostrato che sono ancora pochi i cittadini che conoscono cosa vuol dire RAE, rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, e ancora meno sono quelli che sanno che già oggi è in vigore questo 1:1, cioè se compro un prodotto posso gratuitamente restituire quello vecchio al negoziante. L'altro pianeta. Di nuovo ben ritrovati, stiamo parlando in questa puntata con Danilo Bonato, direttore generale di Remedia, dell'entrata in vigore del decreto che recepisce la direttiva europea sui RAE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una direttiva che ad esempio prevede l'1:0, cioè la possibilità di consegnare gratuitamente RAE di piccole dimensioni presso i punti vendita senza alcun obbligo di acquisto. Si prevede sempre in questa direttiva il rafforzamento degli obblighi per chi vende online, che dovrà garantire ora il ritiro dei RAE ai clienti che acquistano un nuovo prodotto, ma si impongono anche degli obiettivi ben più alti di quelli che ci sono adesso, quindi un aumento consistente della raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, appunto. Quindi proseguiamo nella conversazione con Danilo Bonato. L'implementazione dell'1:1 non è stata facile, ricordo, insomma, all'inizio ci sono state, vabbè, la grande distribuzione si è organizzata, però poi dopo i piccoli e medi ci hanno messo molto di più. L'1:0 credo presenterà le stesse difficoltà, anche qui il consumatore è fondamentale, deve andare e chiedere questa cosa. Io sono più ottimista, perché che cosa cambia per i distributori? Cambia il fatto che mentre con l'1:1 c'era oggettivamente una burocrazia che creava degli oneri inutili, delle complessità che in qualche modo disincentivavano il distributore a rendersi parte attiva su questo servizio. Al contrario, l'1:0, devo dire anche su giusta pressione dei distributori, può essere effettuato senza particolari obblighi di autorizzazioni, di burocrazie inutili, e quindi dà la possibilità al distributore di offrire questo servizio in modo molto agevole, con costi estremamente contenuti. E perché no, dà anche la possibilità al distributore di far entrare in negozio un consumatore che magari con la necessità di liberarsi di un piccolo apparecchio elettronico guasto fa un giro in negozio e può anche decidere di comprare qualcosa. Quindi mi aspetto da un lato una disponibilità maggiore della distribuzione a promuovere e favorire questo servizio, dall'altro non sarebbe male qualche campagna di informazione, magari studiata dal centro di coordinamento dei consorzi con il ministero e con gli altri soggetti della filiera, per sensibilizzare tutti i soggetti che partecipano a questo sistema rispetto agli obiettivi. L'obiettivo di passare da 4 a 14 kg è una sfida che ciascun paese deve vincere e che occorre giocare con la massima determinazione, cercando veramente di lavorare insieme, dal consumatore fino al riciclatore, che poi è quello che effettivamente sminuzza i prodotti per recuperare le materie prime. Mi dice questa cosa della campagna perché, diciamo, lancia l'amo attraverso la radio, perché c'è già in effetti qualche contatto per poter fare questa campagna tutti insieme? Ma fino ad oggi devo dire che di campagne ce ne sono state, anche il consorzio Remedia che rappresento ha fatto alcune iniziative, però non siamo ancora a un livello di iniziativa nazionale più organica, più strutturata. E se vogliamo è un auspicio. Oggi abbiamo un nuovo decreto, un nuovo comitato esecutivo del centro di coordinamento, abbiamo una nuova prospettiva. In questa prospettiva oggi non c'è ancora niente di immediato, ma lavoreremo per far sì che venga messa anche in programma una campagna di comunicazione per sfruttare proprio le novità. Tornando alla direttiva europea, abbiamo detto dei 14 kg, vi è contenuto però anche così un indirizzo preciso su quello che è il riutilizzo. Questo è un tema molto interessante, spieghiamo brevemente anche agli ascoltatori che l'Europa dice: prima di riciclare, quindi di sminuzzare in piccole parti un prodotto elettronico o in generale un prodotto a fine vita, sarebbe meglio vedere se si può riutilizzare. Questa possibilità è introdotta in maniera molto chiara nel nuovo decreto legislativo e quindi abbiamo un indirizzo forte che ci dice che dovremo lavorare per sviluppare in Italia, perché oggi non c'è ancora, una rete di centri per il riutilizzo, cioè strutture in grado di selezionare alcuni di questi prodotti elettronici a fine vita e vedere se è possibile rimetterli in commercio. Qual è l'aspetto delicato in questo caso? È che parliamo appunto di prodotti elettronici, e quindi c'è un tema di sicurezza elettrica per il consumatore e c'è anche un tema di garanzia, perché se prendo un prodotto usato sicuramente è un'opportunità di risparmiare rispetto al prodotto nuovo, ma devo anche sapere cosa succede se mi si rompe dopo un giorno dall'acquisto. Ecco che allora vanno definite alcune regole per normare questo settore del riutilizzo, ma sicuramente io personalmente vedo con favore una prospettiva che ci consente di ridurre ulteriormente l'impatto ambientale nella gestione del fine vita dei prodotti, proprio valutando selettivamente, e qui faccio un altro veloce esempio, non credo che valga la pena riutilizzare una lavatrice in classe G, perché forse è meglio, visti i consumi energetici, riciclarla e invitare il consumatore ad acquistarne una in classe A+. Quindi bisogna anche selezionare bene quali sono i prodotti o le categorie di prodotto per cui è opportuno e conveniente da un punto di vista di bilancio ambientale avviare un'attività di riutilizzo. Due cose mi sono venute in mente in questa sua ultima risposta. La prima, appunto, riutilizzare, cioè smembrare un elettrodomestico arrivato a fine vita, significa anche avere la capacità di farlo bene rispettando l'ambiente, che è un tema sul quale so lei è molto sensibile. L'altro aspetto invece nel riutilizzo, nel pensare questi luoghi, questi centri in cui si possa valutare se un prodotto può essere o non essere riutilizzato, rimesso in commercio, si creerebbero sicuramente anche dei posti di lavoro. Quindi anche da quel punto di vista lì, entrare, specificare come fare questo tipo di attività può essere un bene per il paese, che comunque in questo momento sappiamo essere in difficoltà da un punto di vista anche dei posti di lavoro. Quindi sì, ricordiamo al cittadino questo, cioè se il materiale, se i vecchi apparecchi elettronici arrivano al sistema che li ricicla, facciamo qualcosa di positivo per l'ambiente e per il nostro paese. E diciamo però anche agli imprenditori o chi si occupa più della parte, diciamo, imprenditoriale del sistema, che se riuscissimo a passare da 4 kg all'anno, come siamo messi oggi, ai 14 kg fra 5 anni, io dico: trovatemi un settore che può crescere di 3-4 volte tanto in così poco tempo, no? Perché questo materiale in più vorrebbe dire far crescere un settore economico, che è quello degli imprenditori del settore del riciclo. È un'industria di serie A in tutto il mondo, lo può diventare anche in Italia, può essere un settore molto più forte, con maggiore dimensioni, massa critica, fatturato, occupazione. Questo per quanto riguarda chi ha investito e chi vuole investire nel settore del riciclo dei rifiuti, in particolare degli apparecchi elettrici elettronici, per recuperare materiali in sicurezza da un punto di vista ambientale e poi usare questi materiali per poterli reimmettere nei processi produttivi di industrie che utilizzano le plastiche, il ferro, l'alluminio, l'acciaio contenuto nei prodotti elettronici. Poi un'altra filiera che si può sviluppare, grazie proprio a una regolamentazione del settore del riutilizzo, è quella di chi si indirizza verso prodotti usati. Diciamo che la crisi economica, anche da questo punto di vista, può trovare una risposta in un buon mercato dell'usato di apparecchi elettronici funzionanti e garantiti. E poi dare anche del lavoro, e sto pensando in particolare alle cooperative sociali o realtà che possono, diciamo, animare e far crescere dei centri di riutilizzo anche con delle professionalità tecniche di buon livello, perché per valutare se un apparecchio elettronico funziona occorre avere anche delle nozioni. Esattamente, quindi vedo delle prospettive interessanti da questo punto di vista. Anche il governo potrebbe e dovrebbe guardare con favore tutti quegli interventi che possono aiutare il sistema nell'ambito anche di un settore che è affine alla green economy, perché riciclare bene vuol dire fare efficienza sulle risorse naturali, vuol dire comunque contribuire in modo importante agli obiettivi di sostenibilità ambientale. E quindi investire in questo settore ha un duplice vantaggio: creare occupazione e valore e crescita, ma allo stesso tempo creare crescita di qualità, e cioè in un settore che fa bene all'ambiente e dà delle prospettive migliori da un punto di vista dell'efficienza delle risorse. Le vendite degli AE, la crisi ha ovviamente avuto degli impatti, quindi ci sono anche un po' meno rifiuti. Si tiene conto anche di questo? Purtroppo sì, la crisi ha colpito in maniera a volte anche drammatica soprattutto alcuni settori dei produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, e questo sì, lo vediamo, perché noi uno dei motivi per cui abbiamo rallentato nella raccolta di rifiuti elettronici è anche dovuto al fatto che, comprando di meno, gli italiani buttano via di meno. Riutilizzano di più, diciamo. E forse riutilizzano di più. Quindi in questa fase noi abbiamo sicuramente un problema e un ridimensionamento del mercato. È chiaro che sono momenti congiunturali di cui dobbiamo tener conto, però in prospettiva, se guardiamo più nel lungo termine, è evidente che la prospettiva di diffusione di apparecchiature elettriche e elettroniche a livello non solo europeo ma mondiale è di una tendenziale crescita e un aumento dell'incidenza di questi rifiuti rispetto al totale dei rifiuti urbani. Oggi, per dare un'informazione quantitativa, i RAI rappresentano più o meno il 4%, 3-4% del peso di tutti i rifiuti urbani di cui noi ci sbarazziamo, però da un punto di vista di valore forse sono i rifiuti più interessanti, perché se pensiamo alle schede elettroniche che contengono palladio, oro, argento, platino e prodotti come uno smartphone che contiene oltre 40 materiali diversi, capiamo anche la complessità tecnologica che sta dietro il riciclo di questi prodotti e l'opportunità di gestirli in modo adeguato. Grazie a Danilo Bonato, direttore generale del Consorzio Remedia. Ci ritroviamo la prossima settimana con gli approfondimenti che arriveranno da Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione di Parma. Da Laura Bettini, appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora.